Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Io vi ridò i risultati della Serie B, perché prima qualche errore l'ho commesso e me l'hanno fatto subito notare i miei amici ascoltatori via SMS 349-238-6666 per le vostre telefonate 800-24-00-24 da ora fino alle 18. Li ripeto dunque: Atalanta batte Ascoli 2-1, Piacenza vince 1-0 a Crotone, Frosinone Modena 1-1, Livorno batte Torino 2-1, Pescara batte Grosseto 4-2, Portogruaro Varese 1-1, vince Novara Sassuolo 1-0, la Regina di Goleada Trieste 4-0, il Vicenza batte l'Albino Leffe 1-0. Io alla fine di questa settimana, che è stata dura, faticosa, pesante, brutta, diciamolo pure, e con un weekend che promette di esserlo in maniera diversa, ma non meno sofferto, perché il riflesso di quanto abbiamo visto in settimana fatalmente arriverà anche attraverso le vostre voci nel weekend. Alla luce di tutto questo mi sono procurato una piacevolissima compagnia, una giocatrice di basket e una viaggiatrice, si chiama Silvia Gottardi. Ciao Silvia. Ciao a tutti. Bentrovata, grazie di essere qui. Scudetto, tra l'altro, inizia, ed è questo uno dei temi del weekend, di quelli belli, il campionato di basket. Questa sera alle 20 l'anticipo a Teramo, tra Teramo e Armani Jeans, e poi ne parleremo. Silvia ha vinto uno scudetto con Priolo nel 2000, giusto? Sì, un sacco di tempo fa. Qualche mese fa. Ed è una viaggiatrice che ha una storia molto, molto interessante e molto bella da raccontare, e naturalmente ne parleremo, perché sei andata molto lontano, giusto? Sì, vado spesso molto lontano, ma quest'estate sono andata veramente molto lontano. Con un'amica siamo partite da Milano in macchina, su una macchina bella scassata, e siamo arrivate in Mongolia. Quasi arrivate, perché la macchina è morta un pochino prima, ma diciamo che ce l'ha fatta, l'abbiamo spinta fino a destinazione. Macchina tutta rosa color gazzetta, giusto? Sì, la fondazione Candido Cannavò ci ha dato una grossa mano, quindi anche la gazzetta. Noi eravamo l'unico team interamente femminile in partenza dall'Italia, per cui insomma rosa, la macchina rosa, due ragazze, e abbiamo portato in giro il sorriso di Candido attraverso un sacco di paesi. Abbiamo attraversato Grecia, Turchia, Iran, Turkmenistan, percorrendo un pochino la via della seta su fino in Mongolia, quasi 14.000 chilometri, bella lunga. Mica paglia. Silvia, tu come hai vissuto da sportiva professionista, da appassionata, da viaggiatrice questa settimana in cui c'è stato un viaggio che non avremmo voluto vedere, quello non previsto, non preventivato, colpevolmente non pronosticato, secondo me, dai nostri apparati di sicurezza, quello dei tifosi, degli ultranazionalisti serbi fino a Genova, per fare quella che è stata una manifestazione politica e null'altro. Sì, come hai detto tu, è stata una settimana brutta, segnata da questo episodio che nessuno si aspettava. Io penso quasi tutti, insomma, lo sport è un momento di unione, un momento di gioia, un momento che dovrebbe essere vissuto in maniera positiva e piacevole, quindi vedere queste cose che succedono fa sempre male, fa male allo sport e fa male a tutti. Ne ha parlato tra gli altri oggi, tra le voci di giornata, ne ha parlato Siniša Mihajlović, che in conferenza stampa ha anticipato tutti e ha detto: prima che voi mi facciate domande, perché tanto so che me le farete, voglio dirvi alcune cose, queste. Vi anticipo e vi dico due parole, due sentimenti che io ho dentro da qualche giorno, che sono amarezza e dispiacere. Amarezza tanta, perché io sono andato a Genova con la speranza di vedere una bella partita e con la speranza di vedere la mia nazionale vincere, invece ho visto una situazione un po' con la molta violenza, paura, sono cose che non c'entrano nulla con il calcio. E dispiacere, perché purtroppo per colpa di qualche pseudo tifoso la mia nazionale non ha fatto una bella figura, e questo mi dispiace tanto. Tra l'altro, le notizie di oggi riportate dalla stampa serba, non so se le avete lette o sentite attraverso i canali italiani, sono quelle di una spedizione finanziata da organizzazioni criminali serbe, 200.000 euro per fare quello che i tifosi serbi hanno fatto. Adesso ci fermiamo un attimo per il traffico e poi ne parliamo con un mio amico. Allora, Silvia Gottardi, amici ascoltatori, adesso abbiamo in linea un giocatore di basket come te, un'icona dello sport europeo e serbo in particolare, e anche uno dei miei amici più cari, e quindi posso permettermi di essere spietatamente sincero in quello che dirò. Sasha Djordjevic, ciao Sasha. Ciao Carlo, buonasera. Buongiorno a te. In questi giorni abbiamo letto alcune tue interviste, abbiamo sentito alcuni tuoi interventi in settimana. In questi giorni eri a Belgrado, sei tornato ieri, eri a Belgrado martedì quando è successo tutto questo. Che clima c'era a Belgrado? È un dispiacere totale, una comune dispiacere, un senso di pena verso questi ragazzi che veramente hanno il buio davanti agli occhi e non capiscono veramente dove stanno portando immagini della Serbia nel mondo, immagine propria ormai. Ovviamente che non gli importa, però noi che ci teniamo molto alla nostra patria, alla nostra maglietta, a rappresentare il nostro paese in una maniera giusta, con orgoglio e con tanto cuore, ci ha distrutto. Ci hanno distrutto queste scene perché sono completamente istruite, si è capito, si è visto, si è capito subito. Anche tre giorni prima della partita con Italia c'è stato Gay Pride a Belgrado, dove ancora un'altra volta sono usciti per le strade a fare guerriglia urbana contro la polizia, a far casini, a distruggere la città, a rubare, insomma tanti ragazzi feriti, tanti poliziotti feriti, una roba che a noi sì. Ormai non è una cosa che è molto più profonda di solo un atto contro la federazione di calcio, diciamo. Non è assolutamente così. Senti, quindi Sasha, lo sappiamo tutti. Ma a Belgrado lunedì, il giorno prima della partita, si sapeva che sarebbe successo qualcosa? Si sapeva che c'erano delle teste calde, che c'erano degli ultra, che c'era questa gente, Carlo, che andava a Milano? Io ero a Milano, sono uscito con mio amico e abbiamo incontrato per le strade per caso 7-8 ragazzi che sono venuti a vedere la partita, ma non ultra, ragazzi che hanno dormito a Milano, hanno fatto un giro così e poi sono andati a vedere la partita, no? E dove in una chiacchierata così amichevole ci siamo presentati, così mi hanno riconosciuto e abbiamo cominciato a parlare di su e giù di tutto quello. Hanno detto si stanno preparando di venire su, ci sarà un gran casino. Io non ci ho fatto caso quella sera lì, abbiamo continuato a scherzare e poi il giorno dopo, quando sono andato a Belgrado, quando ho visto tutto quello, ho detto: ma quel ragazzo lì mi ha detto che lo sapeva già che stavano venendo per creare qualcosa. Non so se avevano intenzione di creare quella cosa lì, se c'era tutto questo pianificato. Ovviamente no, perché quando una volta entri lì succede di tutto. Sì. Però ovviamente era già per aria questa cosa, quindi certo. Tra di loro si sapeva. Poi sono usciti vari blog nell'internet, per siccome la nostra televisione voleva comprare i diritti, alla fine ultimo giorno li ha comprati, ma i vari blog dove sono usciti dicevano: ma non le comprate neanche, perché la partita non si giocherà. Quindi tra di loro lo sapevano questa cosa che è stata veramente organizzata, e questo che a me mi fa male tantissimo, perché c'è questi ragazzi ovviamente non so se si rendono conto cosa vuol dire la maglietta del tuo proprio paese, tifare per la maglietta, sentire l'inno nazionale, giocare per la maglietta, vedere un capitano Stankovic che è distrutto per questo fatto qua, che vuole rimanere qua a vivere, che ha tutta la famiglia, che non ha una macchia nella sua carriera, adesso gli succede questo, deve spiegare perché è andato sotto la curva, a calmarli, a mostrare il nostro dito 3, che è un nostro dito segnale. E poi ti chiedo anche di questo, perché su questo sono state dette e scritte anche un sacco di sciocchezze, no? su questo segno che è stato fatto ai tifosi serbi, sembrava fosse un saluto nazista, mentre sappiamo bene che non è così. Però quello che voglio dire, Sasha, è che questa spedizione, insomma, tu mi dici che hai incontrato questi ragazzi per Milano, io leggo sui giornali oggi che 120 tifosi serbi hanno dormito a Milano lunedì notte, avevano prenotato già da settembre, quindi sapevano bene che sarebbero venuti in Italia. Lo sapevano un po' tutti, solo non so, le autorità serbe, c'è stato questo, dicono, ma non ci hanno avvertito, non ci hanno detto niente. E le autorità italiane, secondo me è inaccettabile minimizzare la responsabilità dell'apparato di sicurezza italiano. Loro sapevano o avrebbero dovuto sapere ciò che stava succedendo. I serbi sapevano benissimo che arrivavano in Italia e non trovavano grandi resistenze nell'entrare in quello stadio con tutto il loro arsenale. Assolutamente sì, sono d'accordo con te, perché ovviamente non è la federazione serba o la polizia serba che ha dovuto organizzare no, la partita e mettere le forze d'ordine nei posti giusti o controllare tutto, vedere chi entra allo stadio, quindi sicuramente una gran parte è nella organizzazione, perché ho letto anche varie dichiarazioni della gente comune, tifosi italiani che sono venuti allo stadio, dove si sono lamentati, che dicevano a noi ci hanno perquisito tutto, mio figlio anche, e a questi qua non avete fatto nessun controllo. È inaccettabile da parte degli italiani. Io sono assolutamente d'accordo, però non vorrei puntare il dito contro una o l'altra federazione, organizzazione o qualsiasi cosa, perché non penso che sia quello. Sì. Quello il punto. Il punto è che in questo momento il mio paese sta entrando in una regolarità, stiamo viaggiando verso la comunità europea. Il martedì scorso, quando c'era la partita, c'è stata la Hillary Clinton a Belgrado, quindi il messaggio due giorni prima si è voluto dare: questo è un paese da destabilizzare con tutta la guerriglia che c'era sulle strade per il Gay Pride. Poi nel stesso giorno, mentre Hillary Clinton diceva Serbia c'ha il diritto di entrare in comunità europea per le vie principali, perché si sta mostrando molto collaboratrice, sta facendo passi giganti, sta facendo di qua di là, e dall'altra parte l'opposizione non vuole quello, non vuole, perché ci sono troppi conti in ballo, troppi interessi, la gente non interessa ad aprire le carte con le regole. Una volta entrando nella comunità europea, tu devi vivere con le leggi della comunità europea. Infatti da noi c'è tanta corruzione, tanti privatizzazione degli enti pubblici fatti in una o altra maniera non bene, o sempre polemica, sempre scandali politici, insulti da una o dall'altra parte. Da noi c'è una guerra politica che è una roba da non credere per un paese tan piccolo e non tanto importante nel punto di vista politico globale. Sì. Solo che si sta creando questa atmosfera di certo, chi lavora nell'ombra non vuole, i serbi che lavorano nell'ombra, i poteri che lavorano nell'ombra in Serbia non vogliono la Serbia nell'Unione Europea, questo è evidente. No, perché entrano le leggi certo. Non interessano, perché sud della Serbia, Kosovo, si sa già da ormai da non so quanto tempo, soprattutto Kosovo, che è il centro di distribuzione della droga europea. Sì. Ma al centro, quindi c'è un ballo di numeri che non potete capire. Intanto hanno sequestrato tutti i beni di un gruppo, di uno che fa, dicono che fa queste cose con immobili, con case di qua, di là, compagnie varie, un sacco di gente. Cioè la nostra polizia sta facendo di tutto, però ovviamente c'è un'organizzazione chi lavora nell'ombra questi controlli non li vuole. Silvia, vuoi chiedere qualcosa a Sasha Giorgiovic, che tra l'altro conosci, da collega? No, sì, magari. Ciao, non so se ti ricordi di me, io comunque sono tua grandissima tifosa, avevo poster appesi in camera e hai vinto uno scudetto in Italia, cosa che a lui non è riuscita. Tu l'hai vinto con Priolo, a lui manca. L'unica cosa che gli manca... Non ho giocato con Priolo. Sì, la vedo un po' dura. No, cosa ne pensi di questa discussione che stiamo facendo, Silvia? No, come ho detto, mi sembra assolutamente incredibile. Io stavo facendo allenamento, quindi non ho potuto vedere la partita e ne sono venuta a conoscenza solo il giorno dopo e sono rimasta assolutamente di stucco. Come avete detto voi, noi andiamo agli stadi, ci tolgono le bottigliette, i tappi alle bottigliette, qui invece loro sono riusciti a entrare con delle cose incredibili. Senza dubbio allucinante, perché sembra proprio una cosa che fosse stata organizzata prima. Ma lo era, è stata una manovra militarmente perfetta da parte degli ultra serbi, dal loro punto di vista, perché loro sono arrivati con quell'obiettivo, che l'obiettivo hanno perseguito con i loro mezzi, anche strategicamente e perversamente intelligenti, se volete. Prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori, volevo chiedere ancora una cosa a mio amico Sasha Giorgiovic. Cioè, tu non sei un ultranazionalista, non sei un seguace delle tigri di Arkan, sei solo un grande sportivo che ama il suo paese. anche tu hai usato quel segno delle tre dita aperte di cui parlavamo prima, e per cui, sì. e per cui sono stati in qualche modo, al di là delle fesserie che sono state dette in telecronaca, no? Stanno dicendo che perdono la partita 3-0, eccetera. Lasciamo perdere. Però quelle tre dita aperte cosa significano per te? Ma tre dita aperte è il segno serbo, il segno del appartenenza al nostro popolo. Voi quando fate il croce lo fate con la mano aperta, cattolici. Noi siamo ortodossi, la nostra croce comincia con le tre dita chiuse, no? E quei tre dita rappresentano quello, la religione, l'appartenenza al popolo serbo, ma patriotismo, nient'altro. Queste tre dita in ogni vittoria che voi vedete con le varie nazionali, del vari, ma anche delle squadre normali del Partizan, sono il segno di appartenenza e il nostro popolo. Non c'entra niente con 3-0, ma chi dei giocatori lo sa come andava a finire prima della partita, se andava a finire la partita o no, ma sono delle sciocchezze mai viste. Il segno 3 è il nostro segno, e i ragazzi sono andati sotto la curva applaudendo, cercando di calmare con i gesti che lo sapevano loro come calmarmi per poter giocare la partita. Quello certo. Che volevano era giocare la partita. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Dai. Ci sono inni nazionali, noi abbiamo cambiato l'inno nazionale, no? C'era vecchio jugoslavo, adesso ultimi 4-5 anni c'è un bellissimo inno nazionale serbo, no? E durante tanto tempo si fischiava nei stadi soprattutto questi inno nazionale vecchio, adesso il nuovo non si fischia, ma si fischiavano gli altri, no? Perché dopo i bombardamenti, dopo l'embargo, dopo di qua di là c'era tanto rigetto verso l'Europa, verso il NATO, certo. Verso il mondo, insomma, perché ci sentivamo perseguitati da parte di queste forze mondiali, no? Economiche. Quindi la gente entrava e fischiava Spino, che è un tipo di insulto, no? Sì. E quindi noi ci chiedevano addirittura i vari politici, i ministri di qua di là, di fare le dichiarazioni prima delle partite e chiamare alla gente, invitarli a non fischiare, a cominciare a rispettare i paesi, rispettare tradizioni, rispettare i colori e emblema del paese contro il quale giochi, perché è un segno di cultura, un segno di civiltà che noi l'abbiamo, però è la nostra storia che ci ha portato a fare tutti questi estremi, tutte queste idiozie sugli spalti, se li posso chiamare così, perché la nostra storia veramente ultimi 15 anche 20 anni è una roba devastante. Qualsiasi paese sarebbe uscito gobbo, zoppo e distrutto. A noi stiamo andando, siamo molto orgogliosi come il popolo. Quindi cerchiamo di alzare sta testa, e quando c'è da dimostrare che tu sei più forte contro alcune delle forze economiche mondiali sulla carta, no? Contro i paesi più numerosi, sicuramente il sport è una maniera di far vedere che veramente abbiamo il valore. Certo. Però dobbiamo sicuramente rimanere sul valore sportivo, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, culturale, e rimanere solo lì e mostrare a tutti che veramente siamo un popolo di sportivi in ogni senso di questa parola. Perché è evidente che quelli che c'erano l'altra sera a Genova non vogliono bene alla Serbia, non c'è dubbio. Quelli non vogliono bene alla Serbia hanno fatto un danno enorme alla Serbia, su questo nessun dubbio. Sascha, ti ringrazio, ti abbraccio. Grazie Carlo, a te. Ciao. Ciao. Grazie Sascha Georgevic, ci fermiamo un attimo, abbiamo detto un sacco di cose, questo è un programma di sport e questi argomenti non dovrebbero neanche entrare, anche se sono estremamente interessanti, però è la cronaca che ci riporta, e sono necessari approfondimenti che ci portano, della cronaca che ci portano a queste discussioni. Tra poco, subito dopo una breve pausa che ci aspetta, cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Vedo Carmine da provincia di Lecco, Luca da Milano, 800 24 00 24 numero verde, poi con Silvia Gottardi parleremo anche di sport, quello vero, e non questo di cui abbiamo parlato per tutta la settimana in realtà. A tra poco. Sempre vicino a me Silvia Gottardi, tra poco vorrei che parlare con lei anche del campionato di basket che sta cominciando, che comincerà questa sera alle 20 con l'anticipo, come detto, Teramo-Milano. Però prima ascoltatori, Carmine, provincia di Lecco, e Luca da Milano, come ho detto, tanto per cominciare, poi domani andremo avanti in queste discussioni, se volete, dalle 5 alle 7, saremo insieme come ogni domenica. 800 24 00 24, Carmine, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Genta. Dica. Io volevo fare il mio intervento per una critica al signor Prandelli, quello sì. Che era l'allenatore della mia nazionale. Sì. Ecco, sulle dichiarazioni che ha detto che i fatti di Genova gli sono ricordati i fatti dell'Aizel. Sì. Il signor Prandelli si deve vergognare di nominare il nome Aizel e le 39 vittime, perché lui l'anno scorso sulla panchina della Fiorentina non ha trovato nulla da eccepire sul gemellaggio da infami fatti dai tifosi viola con quelli del Liverpool. Mi sbaglio, forse... Guardi, secondo me queste sono cose da tifosi, compresi i gemellaggi, cose che non capisco. Secondo me in un mondo ideale non dovrebbero esserci né gemellaggi, né scontri e nemmeno tifoserie organizzate. Guardi un po', io sono per il tifo totalmente disorganizzato, nel senso che la gente normale va lì e si guarda la partita, quindi... Da questo punto di vista poco mi importa di gemellaggi, mica gemellaggi. Non credo che Prandelli pensasse a quell'episodio, avesse collegato i due episodi. Semplicemente nelle dinamiche io capisco che dal campo, questo per difendere nessuno, proprio nessuno, però dal campo vedere quella situazione abbia creato un'enorme paura verso chi, fatti come quelli dell'Aizel, ovviamente non c'è nessuna correlazione e per fortuna, l'associazione di idee più immediata è stata questa, quindi non farei troppi collegamenti, anche per versi, perché ripeto, sta storia delle tifoserie, dei gemellaggi tra le tifoserie, io non ho neanche voglia di commentarli. Guardi un po', Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, io volevo chiedere il suo parere su alcune osservazioni che io faccio da tifoso che ha vissuto sia la vita di curva, sia quella da normale tribuna, sia la trasferta, e che mi sembrano talmente logiche che non credo che la gente non riesca a pensarci. Due cose: io e altre 2000 persone siamo rimasti fuori da una partita a rischio zero come Inter-Udinese per le cervellotiche regole di accreditamento dei biglietti. Sì, quelle che Maroni vorrebbe esportare a livello europeo, lei dice? Quello che Maroni dice dovrebbero farlo anche loro? Quelle lì? No, guardi, è assurdo. Quando tutti sanno benissimo, tutti lo sanno, che i tifosi della curva non stanno al loro posto. Sì. E quindi è inutile. Altra cosa, i tifosi più pericolosi entrano all'ingresso e gli steward sono persone qualunque, non sono dei guardie del corpo, sono delle persone qualunque che non prenderanno mai un pugno per fermare una persona che entra come un bufalo, come quella persona che c'era a Genova. Perché non dotare semplicemente gli stadi di, prima di tutto, un metal detector? Non costa niente, non è una questione di fare di uno stadio una prigione, è un flusso di protezione che eviterebbe di portare coltelli e fumogeni. E poi invece degli steward, delle persone che lo facciano il mestiere, non è una spesa grande. Sono tutte cose che le persone sanno benissimo dove la gente nasconde i coltelli, però nessuno fermerà una persona come quella che c'era a Genova. Guardi, io mi limito a rileggere un'intervista sul Corriere della Sera che ha scritto molte cose, ha lavorato molto, molto bene secondo me sull'argomento, un'intervista comparsa l'altro ieri ad alcuni di questi teppisti serbi che hanno fatto hanno fatto questa manifestazione politica, perché di questo si tratta. Ebbene, questo tifoso serbo dice: abbiamo comprato i razzi nei negozi di nautica vicino al porto e ci hanno dato regolare scontrino. Quindi la perquisizione faceva ridere, due pacche sul giubbotto, avevamo nascosti i razzi sotto i giacconi e nei pantaloni. Abbiamo portato dentro quello che abbiamo voluto. Tra i 2000 tifosi serbi eravamo solo 50 ultra della Stella Rossa, non 200, e fossimo stati 200, i poliziotti italiani ce li mangiavamo. Eccetera eccetera eccetera, mentre non hanno toccato nessuno, non ci sono stati scontri da loro provocati con la polizia, non ci sono stati scontri con tifosi italiani, eccetera. Era un piano molto, molto ben congegnato nella sua perversità, nella sua perversione, forse meglio. Comunque così è, ma loro sapevano perfettamente che attraverso le maglie larghe del sistema italiano sarebbero passati, e non era un caso che avessero scelto questa partita e questo palcoscenico, almeno secondo me. Ti piace la pallavolo, Silvia? Sì. Un po' di più il basket, però adesso parliamo di pallavolo perché c'è Andrea Zorzi. Anche di pallavolo perché c'è Andrea Zorzi ogni settimana ci legge un personaggio che in questo caso sarà molto volatile, secondo me. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. L'hai messa in difficoltà però, Silvia, così, proprio a trabocchetto. Sì, non l'aspettavo. Trappolone. spesso si diceva no, non mi piace, anzi, adoro la pallavolo. Mi fa un po' schifo quello sport lì, e poi dopo un attimo arrivo per telefono. Sai come, ma sai come sono i rapporti tra baschettari e pallavolisti, lo sai, no? Lo sai che sono dei rapporti un po' conflittuali, lo sai benissimo, un po' conflittuali. Dicevo prima, Andrea, nella nostra chiacchierata del sabato mattina a microfoni spenti, il personaggio della settimana sta nell'aria, perché? Ma dunque, perché io questa settimana sono stato queste ultime due settimane in una sì, bolla pallavolistica, per alcuni aspetti molto bella. Adesso poi parlavi anche di questa operazione politica che ha fatto i serbi, mi è venuto in mente per esempio i nostri amici serbi, che però quando parlano della loro storia spesso volentieri sono più legati di altri giocatori alla storia del passato della Serbia, e questo li rende a volte anche dei grandi atleti. Pensa che Vladi Grbic, che è il fratello del palleggiatore che ha vinto adesso il bronzo a Roma pochi giorni fa, quando gli si racconta quali siano delle ragioni per cui in Serbia siano così forti negli sport di squadra, lui risponde candidamente, un po' forse provocatoriamente, perché è un sacco di anni che facciamo la guerra e questo fa diventare dei migliori atleti. Io non credo sia vero fino in fondo, non c'è dubbio che lo spirito agonistico dei serbi è comunque tra quelli più sviluppati. Andrea, però, dimmi. No, dimmi tu. No, volevo parlarti invece del fatto che uscito dalla bolla della pallavolo automatica, sì, mi sono infilato in un'altra bolla, però a Roma, sono rimasto qualche giorno a Roma per un lavoro. Sì. E quindi negli spostamenti molto lunghi mi sono sintonizzato sulle tante radio romane, sì, che parlano della Roma. Sì. Ce ne sono più romane che laziali, a quanto mi è parso di capire, ma non ho una conoscenza. Non hai fatto censimento, insomma. Non ho fatto un censimento di quelli proprio organizzati. Ed è interessante perché il loro palinsesto è piuttosto semplice. Cambiano i conduttori, ma l'argomento è sempre, sempre lo stesso. Ho scoperto cose meravigliose su quanti chili ha perso Adriano, sì, anzi, sul fatto che li ha persi all'inizio e poi dopo basta. E poi basta. E questo è un motivo di critica durissimo in questi giorni. Si riparla già bene di Spalletti, Ranieri è sotto un treno. Totti, vabbè, sono cose. Totti chi lo tocca, Totti, guai a chi lo tocca. Ma dunque lì c'è una strana, nel senso che dipende un po' dalla telefonata precedente, sai, nel senso che se quello precedente lo difende, quello dopo tende a dire ma non possiamo stare sempre attaccati al capitano, bisogna anche un pochettino cercare di andare avanti. Alternativamente, ma è laziale però quello dopo. no, qui non ci sono commistioni, la radio è romana o è laziale, sì, qualunque tipo di telefonata che non sia di fede quella giusta non viene neanche presa in considerazione, ma poi neanche ci provano. E magari sono gli infiltrati però. Sì, ci provano. Ci provano. Una bambina piccola ci ha provato l'altro giorno, veramente piccola, aveva 10-11 anni, infatti i conduttori erano un po' in difficoltà perché abituati a voci di questi signori, questi ragazzi con una fortissima cadenza romana, erano lì che dicevano ma ciao, come ti chiami? Rebecca, ah, che bel nome Rebecca, dimmi, forza Roma. No, io sono laziale. Giù il telefono in faccia. Hanno messo giù il telefono. Quindi insomma, mi ha colpito un po' perché ripeto, io come molti di voi seguo il calcio, ci mancherebbe altro, però Roma mi ha sempre colpito perché se ci vai in taxi ascolti quella radio, i tassisti aspettano il derby, e questo è un momento caldissimo perché poi settimana prossima se sei in giro da solo, e quindi Roma rappresenta anche calcisticamente una realtà tutta particolare che per me in questi giorni è stata molto forte, ed era un po' quello l'ambiente in cui ho passato queste ultime. Immagina giocare lì però, immagina giocare lì, guarda, fare il giocatore lì. Quanto sono andato a trovare Montali quest'estate nel lungo viaggio, sì, di cui tu sai perfettamente com'è andata, Giampaolo a Trigoria mi ha detto guarda che una delle cose che ho fatto all'inizio è quella di ascoltare un po' di radio perché so qual è il potere di quella radio, e ci sono veramente delle situazioni un po' complicate che poi alla fine spostano comunque molti tifosi, e quindi evidentemente Roma deve fare a botte anche, deve lottare anche contro questa realtà, sì, radiofonica, che non ha secondo me uguali, un po' perché non c'è un'altra città con un derby così sentito, un po' perché Milan Inter sono un po' milanesi in questo senso, certo, cioè, c'è una rivalità ma rimane lì più che altro sui colori, esatto, o esatto, sullo sfottò, ma no, lì è una cosa che fa una certa impressione, devo dire. Grazie Andrea. Oi, ciao a tutti. Ciao Andrea. E buon inizio con il basket. Grazie, sì, buon inizio con il basket, sì. Silvia, tu hai giocato in un posto molto piccolo ma che ha molto significato per la pallacanestro, come Priolo. È difficile un paragone con Roma, però però io credo che anche in un piccolo centro nel quale il basket rappresenta così tanto, con scudetti eccetera eccetera, un po' di pressione di questo tipo ci possa anche essere. Ma è stato, vabbè, pallacanestro femminile, parliamo di un numero di tifosi totalmente diverso, quindi già essere in Sicilia dove invece c'è un pubblico molto più caldo e molto più numeroso è stato fantastico, e per me è un'esperienza assolutamente irripetibile con un pubblico, diciamo, che può essere paragonato a quello di qualche partita maschile. Pensa però alla pressione di giocare a Roma a calcio, eh? Sì, assolutamente. Io penso che però mi gaserebbe giocare in uno stadio così grande con così tanti tifosi, sì. E però ti stanno addosso sempre, eh? Lo so, però penso che sia proprio la forza di un campione o comunque di un grande giocatore di riuscire a vincere questa pressione e dare sempre il meglio, insomma, anche quella è una parte gestirla. Importante, sì. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi Andrea da Genova e Federico da Pisa. Andrea da Genova, Federico da Pisa, poi vorrei parlare con Silvia Gottardi, vorrei chiedere a Silvia Gottardi chi vincerà il campionato di basket italiano, e se mi dice Siena, se mi dice Siena non la saluto più. Non mi dici Siena? No, ovvio. Chi mi dici? Beh, Milano. Milano vince lo scudetto, beh, secondo te? Ci manca, insomma, speriamo. Io sono milanista, sì, in senso baschettaro, quindi me lo auguro. In senso calcistico? Interista. Ah però... quindi se vai d'accordo con Minucci, che ha detto tanto lo scudetto, la favorita è Milano, e poi arriva Prodi, è divertente sto giochino qui, no? E no, ma i favoriti sono loro. No, tienitelo tu, il pronostico tienitelo. No, tienitelo tu. Sono andate avanti così per un po', e andranno avanti così per tutta la stagione, io credo. Io credo invece che lo scudetto lo rivincerà Siena, guardo un po'. Andrea da Genova. Buonasera, salve, dottor Garanzini. Buonasera, non sono Garanzini. Carlo Genta, volevo... piacere. Fare una rimostranza, non tanto a me, ma quanto a alcuni personaggi che hanno qualificato male lo stadio di Marassi e diciamo l'ubicazione dello stadio. Io volevo soltanto dire che una cosa così sarebbe successa in qualsiasi altra città d'Italia, visto da come è stata organizzata. Sì, questo è sicuro. Certo, è, Andrea, lei sarà d'accordo che la situazione, io lascerei perdere mille collegamenti con altri fatti che nulla c'entrano, no? Con questo, però comunque lo stadio di Genova presenta delle difficoltà logistiche. Poi sul fatto perché in una situazione di queste persone armate, di questi, diciamo, fumogeni, questi oggetti, hanno prediletto la scelta di farli entrare nella gabbia piuttosto che fare lo screening ai tornelli, che praticamente e avrebbe creato una confusione incredibile, e di chiudere nella gabbia, perché poi se andiamo a vedere le cose come sono andate alla lunga, lasciamo perdere la partita che è stata sospesa, pazienza, è stato un delitto, però non c'è stato un morto, un ferito grave, non c'è nessuna rianimazione, e la polizia ha arrestato tutti i personaggi, perché ricordiamoci, qui a Genova la polizia ha avuto anche il ricordo del G8, hanno aspettato la notte, li hanno presi la notte alle 3, alle 4 del mattino, dopo che queste persone qua erano però vede, lei ha ragione, lei ha ragione. Da fare questo anche calcolo, la polizia non ha agito male, è stato l'intelligence, diciamo, tra le due federazioni, esatto, che non c'è ma stata. L'intelligence tra le due federazioni tra i due paesi, perché tra le due federazioni sì, ma lì stiamo parlando di altre cose, però non possono dirmi non mi hanno detto niente e allora io non ero preparato, perché tu lo fai di mestiere, devi essere preparato per una situazione di questo tipo. Se lo fai di mestiere devi sapere che è un momento particolarmente delicato, che la tifoseria, politicamente molto delicato, che la tifoseria serba non è nella sua frangia più estremista, tra le più tranquille che ci sono, quindi io penso che si dovessero sapere queste cose, non mi possono dire, non le sapevo perché non me le hanno dette. Ripeto, 120 numero da verificare, comunque molti ultra serbi hanno dormito a Milano lunedì notte, è scritto oggi sui giornali, hanno prenotato a settembre o i primi di ottobre, quindi si sapeva che, o si doveva sapere in certi ambienti, che questo poteva accadere, non sono state prese delle misure adeguate. Detto questo, lei fa bene a sottolineare che poi non sia successo nessuno scontro particolarmente grave, però il fatto è che lì quelli non dovevano arrivare dentro quello stadio in quella maniera, quindi prevenzione è questo, non sono altre cose. Federico da Pisa. Sì, buonasera. Buonasera. Io intervengo per quanto riguarda più che altro la tessera del tifoso e sul fatto che non c'è una prevenzione col tornello, con la tessera del tifoso, perché ora io a Pisa non vado più da quando ci sono i cancelli, perché è una cosa secondo me che non fa bene al calcio, che non mi piace vivere, però Quando andavo a vedere le partite, prima di entrare c'era la perquisizione, quindi se avevo qualcosa dentro mi perquisivano, me la toglievano, non ho mai avuto niente tranne magari i tappini per le bottiglie per chiuderla, sì. Più di quello non ho mai avuto, però invece adesso entri dentro lo stadio, ti puoi portare quello che ti pare, fai tutta la confusione, spacchi tutto quello che ti pare e dopo ti dicono ma in quel posto c'eri te e quindi ti accusiamo. E quindi non viene a prevenire la violenza che ci sarà, cioè che si crea. Sì. Dica. Sì, no, dicevo che alla fine prima fai avvenire il danno e poi colpisci l'ultra. Invece secondo me devi fare una cosa preventiva, cioè non fare entrare proprio quelle cose dentro. Io col tornello, passando dal tornello, alla fine puoi portare dentro. No, ma guardi, io sono al di là del portare dentro questo o quell'altro, io sono dell'idea che dunque, innanzitutto mi lascia perplesso uno strumento che esiste solo da noi, no? E non capisco perché. O l'abbiamo inventato noi e siamo più bravi degli altri, ma non credo, oppure è uno strumento che qualche perplessità lascia. Adesso non vorrei aprire questo capitolo della tessera del tifoso, sennò facciamo notte. Però questo strumento qualche perplessità mi lascia, soprattutto da fruitore normale, da gente che va allo stadio per vedere la partita che non appartiene a ultra o gruppi organizzati, eccetera, eccetera. Questo strumento lo trovo difficilmente accettabile, perché in un paese civile si schiedono i criminali, non si schiedono le persone normali. E quindi dal punto di vista, diciamo così, etico, questo strumento qualche perplessità me la lascia. Poi Maroni vuole esportare a livello internazionale, vedete voi. Allora, io tornerei invece, prima di chiudere con le ultimissime dai campi della Serie A. Silvia, ma perché Milano vince lo scudetto secondo te? Ma vince perché io sono un grande tifoso di Milano, okay, quindi lo dico sicuramente con un po' di sono da quella parte. Sicuramente secondo me ha fatto dei buoni acquisti, è tornato Hawkins, che è un giocatore forte, un giocatore che a Milano era amato anche. Poi è andato a Siena, ha imparato come si fa. Vabbè, quindi ce lo ritroviamo più forte. Sì. E poi ho letto anche di questo Melli, che sembra un nuovo Gallinari, quindi sono molto curiosa. Poi secondo me è sempre bene quando si lanciano dei giovani che vengono dalla Lega 2. Vediamo cosa succede. Ma Piero Bucchi, secondo te è l'allenatore giusto per far vincere Milano? O in generale cosa ne pensi di questa frizione che esiste tra una parte del pubblico milanese e l'allenatore? Ma forse a Milano me, se non vinci per tanto tempo sicuramente hai le due finali non hanno di fila perse, non hanno fatto bene, però Siena era troppo superiore, insomma abbiamo provato anche altri allenatori, vediamo cosa combina, non sempre, insomma, da che mondo è mondo gli allenatori non sono benvenuti da tutti, io lo farei lavorare, vediamo cosa succede. Credo che la squadra sia più competitiva quest'anno. Siena non ha fatto grossi cambiamenti, quindi io vabbè parlo come ti ho detto sempre un pochino più col cuore da tifosa, mi auguro che quest'anno si possa fare qualcosina di più. Senti, e l'Inter invece cosa combina? L'Inter speriamo che vinca ancora. Sarà sicuramente molto difficile ripetersi perché ti piacerebbe Messi? A chi non piacerebbe. Anche Benitez ha già detto: se il presidente vuole comprare Messi, io non mi oppongo. Vabbè, grazie, chi si sarebbe opposto? A me piacerebbe, sicuramente sarebbe uno stimolo per andare un po' più spesso allo stadio, che è complicatissimo andare allo stadio. Per una come me che ci va poco, adesso la tessera del tifoso, lascia il nome, i tornelli, la fotografia, da dove viene, chi sei, e cosa porti, è un fiorino. Sì, ma no, adesso io volevo dire, stiamo parlando di prevenzione, di come è possibile che siamo riusciti a far entrare questa gente allo stadio, ma nessuno parla mai di prevenzione. Ma i ragazzi perché non gli si insegna l'educazione civica, l'educazione stradale, quasi quasi bisognerebbe insegnare anche l'educazione sportiva, cioè secondo me è incredibile, io faccio sport e apprezzo lo sport perché mi piace lo sport, non per andare a far casino. Ma naturale. Abbiamo un minuto per Giovanni Capuano per sentire le ultimissime dalla Serie A, in particolare sono curioso di capire chi gioca nell'Inter domani, perché sono Messi non c'è ancora, l'Inter è ridotto ai minimi termini, domani è 12:30 una partita. Allora, partiamo da lì e proviamo in un minuto a dire tutto. Nell'Inter solo 19 convocati, ma dentro ci sono anche il terzo portiere e i giovanissimi Obi e Alibec. C'è Thiago Motta, prima convocazione della stagione, ma andrà in panchina. Non ci sono Van del Cordoba, oltre a tutti gli altri. Quindi giocherà il tuo prima punta con Biagni e Coutinho, a mezzocampo Stankovic e Zanetti. E dietro rientra la coppia centrale titolare, formata da Lucio e Samuel, con Kivu e Maicon sulle fasce. Zanetti sosterrà in serata alcuni esami per capire se davvero è a posto, ma al 99% domani gioca. Giovanni, un'ultima battuta: Totti, Borriello stasera non si discute, giusto, nella Roma? Allora, Totti Borriello non si discute e non si discute nemmeno, ti do questa notizia, la presenza di Pizarro, perché il provino che ha fatto questa mattina è ok e quindi gioca. Lo stesso vale per il Genoa, per Rafinha, il laterale destro, che rischiava di saltare la gara dell'Olimpico, questa mattina ha provato e ci sarà. Se vuoi ti do velocissimamente anche le formazioni di Milan-Chievo, formazioni solo per sapere se chi gioca davanti nel Milan. Ecco, gioca Ronaldinho nella posizione di trequartista con Pato e Ibrahimovic, a metà campo Gattuso, Pirlo e Seedorf, dietro sulle fasce Zambrotta e Antonini, in mezzo Nesta e Thiago Silva. Rispetto alle previsioni della vigilia, invece nel Chievo non c'è Moscardelli con Pellissier, ma c'è Granoce. Chievo che comunque gioca con il 4-3-1-2, dunque una formazione abbastanza offensiva. Ultima battuta sulla Juventus, dove non abbiamo tempo Giovanni, sennò mi spengono il microfono. Tanto la Juventus domani con il Lecce ne parleremo domani pomeriggio dalle 5 alle 7, grazie a Silvia Gottardi. Grazie a te. Torna a trovarci. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, buona serata a tutti. A tempo di sport.